turato amante, sperare dunque non lice con le mie preghi cittadin d'averno. Onde quell'ombre errante di sepolto cadavero infelice, privo sarò del cielo e dell'inferno. Così vol embia sorte che questo orror di morte da te, cor mio lontano, chiami tuo nome in vano, e pregando o piangendo io mi consumo.